Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati a Enzo Argante, il traghettatore. Ferribot questa settimana fa un viaggio, è proprio il caso di dirlo, all'interno delle mura domestiche. Parliamo di famiglia per due motivi, anzi per un solo motivo, perché lunedì a Milano ci sarà la grande conferenza nuovo sulla famiglia, e perché in questa occasione il Sole 24 Ore ha editato un rapporto, uno speciale sulla società italiana, di cui parliamo con Laura Laposta, che salutiamo subito, il caporedattore che l'ha curato. Ciao Laura. Ciao Enzo, grazie e saluti a tutti gli ascoltatori. Che a mio avviso, modestamente, lei non sarà d'accordo perché pensa che lo voglia blandire, ma è secondo me una delle cose più intense, più approfondite e anche più concrete che io abbia visto recentemente sulla famiglia, perché non parliamo solo di valori, ovviamente il giornale è un giornale economico, ma entriamo pesantemente, concretamente e secondo me anche molto chiaramente all'interno di quelli che sono i meccanismi che stanno mettendo in crisi il sistema famiglia e ovviamente di quali possono essere le soluzioni perché questo sistema famiglia possa riavere libertà di espressione, possa crescere. Riprendiamoci il futuro, la famiglia al centro della società civile. Il rapporto del Sole 24 Ore sullo sviluppo sociale sostenibile. È meglio il quoziente o il fattore famiglia? Per adesso solo chiacchiere e distintivo. Intanto dal fronte aziende responsabili arrivano, bene accette, noccioline. Nestlé ospita i bambini in vacanza dalla scuola e Luxottica prova a coprire la quarta settimana. Arrivano bene accette noccioline, noi siamo la trasmissione che si occupa dell'economia sociale e delle aziende responsabili. Bene accette noccioline, sono piccole ovviamente non in quanto l'impegno dell'azienda, ma piccole perché il fabbisogno, diciamo così, Laura, delle famiglie è importante. Infatti la prima domanda è quella di aiutarci a capire perché il Sole entra nel merito di una vicenda che potrebbe sembrare più, come dire, culturale, no? Di sensibilità, di attenzione sul sociale, invece è economica, la famiglia. Ma la famiglia è la colonna portante della società, è il luogo dove avvengono gli acquisti dei beni primari, dei servizi fondamentali prodotti dalle imprese, dal sistema paese, dalle tante attività di volontariato, di non profit di questo paese. Quindi è la famiglia che poi spinge gli acquisti e porta in alto il prodotto interno lordo. Questo vuol dire, tanto per essere chiari, fra di noi siamo ovviamente d'accordo, ma per chi ci ascolta, che se crisi stiamo vivendo ed è evidente, l'analisi e le soluzioni possibili non passano dalle grandi finanziarie, non soltanto, è dalla famiglia che può venire un segnale forte e importante. Certo, la famiglia è in sofferenza in questo momento, come hanno attestato i dati Istat, i dati Isfol, gli ultimi dati anche pubblicati sul Sole 24 Ore in settimana. Un componente su quattro ha perso il lavoro o ha avuto decurtazioni di reddito o teme di averle entro l'anno. Quindi si abbassa il reddito disponibile o la percezione di questo reddito e ci sono meno soldi da spendere, quindi si comprano beni meno servizi, meno auto, persino meno beni alimentari nell'ultima settimana, la famosa quarta settimana del mese. Adesso allora, che cosa succede in una battuta lunedì e che cos'è il rapporto sulla società italiana che tu hai curato e che esce lunedì? Lunedì si riunisce la Conferenza Nazionale sulla Famiglia, convocata per legge, che riunirà centinaia di stakeholder, quindi praticamente professori universitari, grandi studiosi, esponenti delle parti sociali, rappresentanti del mondo del volontariato, delle famiglie, che analizzeranno, si divideranno in 10 gruppi di lavoro e ogni gruppo di lavoro correggerà una parte del piano già scritto dall'Osservatorio Nazionale della Famiglia, che dovrebbe diventare una legge, una grande riforma sulla famiglia italiana, con un fisco più equo, con migliori condizioni di lavoro per le donne in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e con moltissime misure a favore del sociale e del welfare. Il problema è un altro però. Il problema è che il welfare è stato tagliato, sarà tagliato forse se non si corre ai ripari con il decreto mille proroghe. L'anno prossimo avrà tagli per 1 miliardo di euro, mentre invece questo piano che sarà discusso lunedì, martedì e mercoledì a Milano vale, e secondo nostre stime Sole 24 Ore, 20 miliardi di euro. Allora, stiamo tagliando o vogliamo investire? E questa è la risposta che deve arrivare dal governo. La tua sensazione di giornalista attenta e a questo punto evidentemente competente in materia, anche personalmente oltretutto, è che questo piano nazionale della famiglia, al netto della fattibilità, quindi delle risorse, della situazione politica del governo eccetera, sia un piano che ha un senso, che può funzionare, potrebbe essere efficace? Sì, può essere efficace, può spingere la ripresa e i consumi. Il cuore del piano però va integrato con la proposta di fattore famiglia che è stata presentata dal forum delle associazioni familiari, quindi tutte le associazioni che si occupano della famiglia riunite nel forum presieduto da Francesco Belletti, che ha elaborato un'ottima proposta che piace molto anche al sottosegretario Carlo Giovanardi, piace molto alla Chiesa, è nata in seno al mondo cattolico e che sostanzialmente, come scrivevamo sul Sole 24 Ore di ieri, consentirebbe a una famiglia tipo di una fascia medio-alta, quindi papà che guadagna 40.000 euro l'anno, mamma che ne guadagna 20.000, un solo figlio, di risparmiare 4.000 euro all'anno di tasse. Con 4.000 euro ci si può permettere un secondo bambino, che poi è il desiderio delle donne italiane, perché secondo i dati le donne riescono ad avere solo 1,3 figli a testa in questo paese, ma in realtà ne vorrebbero 2,1. Cioè ogni donna lo vuole il secondo bambino e non riesce a farlo spesso. A farlo. Certo, fa un po' impressione, la scienza statistica è così, fa un po' impressione avere 2,1 figli, però stiamo parlando di scienza statistica, sì. Quindi sappiamo che questo 0,1 non è una particella di un figlio, ma è un dato. Torniamo sull'argomento, perché la verità poi è quella, è chiaro che ci possono essere tanti valori su cui esprimersi, ma i conti devono tornare nella famiglia. Prima di approfondire questo aspetto, anche con l'aiuto di Gianni Trovati, che ha redatto con Laura Laposta il rapporto, facciamo un altro piccolo volo sulla famiglia e sul perché la famiglia. Guardiamo anche in prospettiva, non limitiamoci solo al nostro naso, guardiamo che cos'è la famiglia dal punto di vista della crescita e del futuro dei nostri figli, secondo un personaggio di grandissimo livello, Ekman, nella sua equazione. L'equazione che prende il nome dal premio Nobel Ekman si basa su tre principi. Primo, lo sviluppo delle abilità cognitive e non cognitive è la chiave di volta per la riuscita al successo, a scuola, nel lavoro, nella società. Secondo, le abilità cognitive e non cognitive hanno un fondamento genetico, ma sono sostanzialmente dipendenti anche dal contesto di sviluppo dell'individuo. In particolare la famiglia è il luogo principale ove vengono sostenute e alimentate. Terzo, vi sono periodi sensibili e critici per lo sviluppo di queste abilità, periodi particolari in cui è necessario acquisire un'abilità che altrimenti non potrà essere recuperata in futuro. Quelle cognitive si acquistano principalmente nel periodo della prima infanzia, mentre quelle non cognitive nell'adolescenza. Insomma, se la famiglia non funziona ci facciamo male, no? Ci facciamo male come sistema paese, come sistema culturale, economico, è evidente, però può sembrare banale soprattutto a chi non ha più, come dire, chi ha una certa età, ma non è così scontato forse oggi con le variazioni, non parliamo di caduta dei valori, diciamo con i cambiamenti che ci sono stati, non è così scontato che la famiglia possa avere e mantenere questo ruolo di centralità. Fra l'altro Laura Ekman, tu l'hai conosciuto, l'hai intervistato, deve essere anche sul piano emozionale un personaggio, come dire, di grandissimo spessore. È una persona incredibile e forse il premio Nobel più meritato della storia dei premi Nobel dell'economia. Io ad esempio toglierei quello dato a Merton, il papà dei derivati, e lo darei invece a Wackernagel, che è il papà invece dello sviluppo sostenibile. Quindi ci sono dei premi Nobel discutibili. Questo invece è eccezionale, perché da economista ha dimostrato su basi scientifiche che investire sull'educazione dei nostri figli in età prescolare conviene a tutti. Conviene ai bambini, conviene alle famiglie, conviene alle società. Pensa a cosa ci ha detto in questa intervista lunedì sul Sole 24 Ore nel rapporto sviluppo sostenibile. Ci ha detto che anche l'Italia deve smetterla di tagliare sulla spesa, per l'educazione, per la scuola, perché dei bambini meglio formati fanno guadagnare alla società dal 7 al 10% di ritorno dell'investimento. Quindi saranno dei bambini che si ammaleranno meno perché sapranno cosa mangiare, sapranno quali consumi fare, come non fumare, eccetera. Quindi si ammaleranno meno, peseranno meno sul sistema sanitario e saranno dei lavoratori della conoscenza che guadagneranno di più e quindi pagheranno più tasse. Conviene a tutti. Beh, che bello comunque. Noi per la verità in Ferribot immodestamente parliamo spesso di argomenti come dire, che ti fanno respirare, non di meschinità, non di morbosità, come purtroppo spesso capita con i media in questo momento del paese. Ma devo dire che parlare di economia attraverso la famiglia, i sentimenti, la conoscenza può sembrare una stranezza, ma è veramente senti proprio fluire le energie e senti fluire soprattutto i valori. Gianni Trovati invece, a proposito di fluidità, è l'uomo dei numeri, possiamo definirti così. Ciao Gianni. Buongiorno, sì, purtroppo a me tocca questa parte. Ecco, però voglio dire, è probabile che chi ci ascolta sarà molto più interessato ai tuoi ragionamenti che non ai miei o quelli di Laura sulla conoscenza, perché i conti devono sempre tornare. Infatti una delle questioni principali che dal rapporto si evince molto bene, soprattutto con elementi di comparazione e dati assolutamente comprensibili e significativi, che noi stiamo parlando innanzitutto di un fisco più equo che tenga conto anche della composizione della famiglia. Tu fai dei raffronti sul quoziente familiare, sul fattore famiglia, ma anche dei casi specifici che si tentano di applicare nel nostro paese. Sì, esatto, perché tutto parte, da questa etichetta del quoziente familiare, che è un compagno fedele di tutte le campagne elettorali, da circa 20 anni. Il problema di questo quoziente familiare è un problema sicuramente di costi e questo ha frenato, la strada dalle promesse all'applicazione, ma è anche un problema di decidere chi e come fruisce degli sconti che verrebbero applicati. Il quoziente familiare, in estrema sintesi, è un modo per dividere l'IRPEF, perché poi quello si parla, le tasse sul reddito, in una maniera tale da favorire le famiglie, soprattutto le famiglie numerose. Il modello è francese, in Francia c'è da svariati anni, costerebbe molti miliardi, dai 3 ai 15 a seconda delle modalità applicative, ma il problema non è tanto quello, il problema è che è giusto lo spirito e lo scopo. Nell'applicazione si rischiano alcune storture, per esempio. Gianni, scusa, ti chiedo di mettere da parte un attimo, segnati un appunto, non dimenticare. Ascoltiamo La strada in diretta e continuiamo il discorso fra pochissimi minuti. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Io ricordo sempre di aver ascoltato con grande ammirazione un conferenziere che ci raccontava di quanto sia importante copiare, no? Di quanto lo sia stato per l'economia, per esempio, giapponese, no? Figuriamoci poi quella cinese, che ha finito addirittura per tracimare e schiacciarci. Quindi quello che ti chiedo a Laura, alla posta, che ormai era massima esperta vivente di famiglia. Laura, effettivamente noi non stiamo scoprendo, non dobbiamo scoprire l'acqua calda, esistono nei paesi accanto ai nostri esperienze fatte che magari funzionano. Sì, ad esempio questa del quoziente familiare in Francia, ricordata da Gianni Trovati, è comunque un modello che ha funzionato, ma portiamolo sull'Italia. Con Gianni nei giorni scorsi abbiamo fatto questa simulazione che era su un giornale sulle 24 ore di ieri e poi sarà anche su quello di lunedì in modo diverso. Immaginiamo una famiglia italiana dove il papà guadagna 40.000 euro, la moglie 20.000 euro e hanno un bambino. Attualmente, secondo i calcoli di Gianni, pagano 14.100 euro di IRPEF, senza considerare le detrazioni. Ebbene, se ci fosse davvero il quoziente familiare promesso dal governo, questa famiglia pagherebbe 2.000 euro in meno di tasse. Se poi invece al posto del quoziente familiare si riuscisse ad applicare il fattore famiglia chiesto invece dal mondo cattolico, il risparmio salirebbe a 4.000 euro. Ora, secondo i dati CISF, il secondo figlio costa de minimis 3.800 euro l'anno. Quindi col risparmio fiscale le famiglie italiane forse potrebbero finalmente mettere in pista il secondogenito che desiderano. Ecco perché il mondo cattolico vuole uscire dalla trappola della denatalità chiedendo meno tasse per le famiglie. Gianni, tu che ne pensi? In Francia è stato fatto e è possibile replicare il modello pur con le dovute correzioni anche in Italia? Sì, è doveroso direi, nel senso che adesso al di là delle turbulenze politiche del governo si torna a parlare in maniera abbastanza prospettica di riforma fiscale, appunto visto che copiare, come dicevate prima, è sempre un buon punto di partenza e poi ti dà anche il vantaggio di poter copiare ma correggere le cose che copi, insomma. Certo, infatti. Il quoziente familiare appunto ha l'ottimo vantaggio di favorire appunto la famiglia, soprattutto a partire dal secondo figlio in poi, perché appunto qui il tema critico, ha lo svantaggio nei fatti di non incentivare il secondo reddito, diciamo così, della famiglia, perché nei meccanismi di divisione, su cui adesso non mi soffermo, il secondo reddito, quello più basso, che in Italia purtroppo è spesso quello della moglie, viene sostanzialmente a essere disincentivato, cioè non crea un grande risparmio fiscale. Il fattore famiglia di cui parlava Laura poco fa è, come dire, il quoziente familiare 2.0, possiamo dire, no? Cioè una evoluzione, certo. Una evoluzione di questo quoziente che in Francia c'è appunto da molti anni, quindi sconta anche un po' i segni dell'età e che supera soprattutto questo problema, perché finisce per favorire in maniera davvero proporzionale i nuclei quanto più sono numerosi e favorisce i redditi bassi, e questo è il punto fondamentale. Bene, grazie Gianni, ti ringrazio molto. Ovviamente l'invito a tutti è di prendere il giornale lunedì, perché sarà ancora più evidente di quanto già, più chiaro di quanto già non sia stato dalle tue parole. Grazie Gianni. In ossequio alla nostra linea e il nostro doveroso omaggio nei confronti di chi investe non soltanto nel business ma anche nella responsabilità sociale, apriamo una piccolissima parentesi con l'aiuto di Laura Posto sulle attività dell'impresa nei confronti della famiglia. La sede milanese della Nestlé apre le porte ai figli dei collaboratori dell'azienda, offrendo la possibilità di ospitarli in aree dedicate durante i periodi di vacanza e chiusura delle scuole. Un sostegno apparentemente marginale, ma in realtà sono 90 i giorni dell'anno in cui i genitori lavorano e i bambini sono a casa in vacanza, con notevoli difficoltà e costi per le famiglie. I bambini tra i 3 e i 14 anni saranno ospitati nello Junior Camp Nestlé e affidati a educatori specializzati e a uno psicologo con attività differenziate a seconda delle fasce d'età. Ci sarà un filo conduttore: la nutrizione, la salute, il benessere, il rispetto delle risorse ambientali e la cura e corretta relazione con gli animali da compagnia. Una bella esperienza. A noi piace anche tanto quella che ha come protagonista una delle nostre aziende più, come dire, prestigiose al mondo, la Luxottica. Ne parliamo con Giuseppe Colferai. Buongiorno Colferai, che è segretario provinciale della FILCTEM di Belluno. Perché cosa ha fatto Luxottica per le famiglie dei propri dipendenti? Luxottica per le famiglie dei dipendenti ha pensato, in un momento di grande difficoltà dal punto di vista economico, di mettere in pista alcune azioni che possono dare, proprio dal punto di vista economico, qualche risposta in termini di aiuto, se non in termini reali di aumento del salario, ma indirettamente con alcune prestazioni che abbiamo messo in pista l'anno scorso e anche quest'anno. Il primo è un carrello della spesa del valore di 100 euro a tutti quanti i lavoratori. Il secondo punto, che è quello più sostanzioso, un'assistenza sanitaria che copre, aggiuntiva rispetto a quella tradizionale, che copre alcune prestazioni che oggi sono scoperte del sistema sanitario. Stiamo mettendo in pista delle borse di studio per i figli dei dipendenti Luxottica. L'altra cosa, abbiamo rimborsato nel 2009 e lo faremo anche nel 2010 il costo dei libri a tutti i dipendenti che hanno fatto domanda dopo la scuola dell'Opole elementare, in cui la spesa dei libri è abbastanza sostenuta, per cui con queste iniziative abbiamo cercato di dare alcune risposte in termini economici, anche se non con un salario netto, ma con delle prestazioni che poi permettono di avere in tasca qualche euro in più. Beh, è bello anche sentirla parlare così, perché lei è un sindacalista, no? FILCTEM CGIL, però parla dell'azienda in prima persona plurale, questo la dice lunga sulle relazioni fra l'azienda e il sindacato da quelle parti, è vero? Beh, credo che noi abbiamo sempre operato, abbiamo avuto, siamo reduci a un incontro con l'amministratore delegato a Guerra ieri, in cui riconosce che uno dei fattori di eccellenza di questa azienda sono i lavoratori. Io ritengo che il bene primario siano i lavoratori. Se i lavoratori va dato il giusto riconoscimento in termini economici, in termini anche di soddisfazione lavorativa, penso che questo sia il principale obiettivo per tutti. Assolutamente. Grazie Colferai della sua testimonianza. Grazie, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Le ultime due schede, Laura, ci portano a quello che potrebbe essere una controindicazione su questo discorso. La donna che fa figli, perché comunque spetta alla donna farli, potrebbe essere penalizzata nel mondo del lavoro. Ma penalizzata sì, se restano le condizioni attuali. Se però davvero si riuscisse a mettere in piedi il piano nazionale della famiglia che sarà discusso lunedì a Milano, allora lì vengono disinnescate molte mine nel percorso lavorativo delle donne. Ad esempio lì sono previste delle misure migliori di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, accordi con aziende, accordi locali e soprattutto forti investimenti in asili nido per aumentare la quota di bambini che possono andare in asili nido. Però speriamo che questo non sia il libro dei sogni regalato al mondo della famiglia a Natale, ma che siano propositi veri di questo governo o di un prossimo, chi può dirlo. Grazie Laura e complimenti per l'inserto, che è ovviamente il rapporto che vi invitiamo a prendere lunedì. Ciao Laura, grazie. Grazie. Grazie anche ad Anita Panizza in redazione e a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che il programma si può ascoltare sul sito di radio24.it.